Quello che proponiamo giovedì 11 è un incontro proprio con il regista, appunto, lo avrete occasione di conoscerlo, l'ambasciatore dell'Argentina che è stato appena designato, prende credenziali se non le ha appena preso, il signor Carles. Sarà un incontro appunto dove si approfondirà un po' su soprattutto, no, l'importanza che ha avuto Piazzolla per la cultura argentina, diciamo. Come anticipavi all'inizio, c'è comunque l'idea di distribuirlo poi quando saranno riaperte le sale. Sì, assolutamente, come Exit Media questo è il film che proponiamo nei prossimi mesi, come insomma un film che essendo di una personalità così forte e legato insomma a un'espressione come il tango che è in Italia ha tantissimo seguito, e un po' l'idea di appena ci saranno le condizioni e le sale potranno riaprire, speriamo presto e con condizioni insomma non così restrittive, si potrà diciamo far circolare il film. È un film comunque del 2018. Sì, chiaramente la pandemia ci ha messo tutti in un anno di ritardo con tutto, quindi chiaramente un film su Piazzolla è un film senza tempo, cioè nel senso che l'occasione del centenario comunque sta aiutando anche a diffondere la sua figura, a parlarne sicuramente pian piano, no, dandogli il posto che merita. Non è a caso che anche a Buenos Aires, che è tutto chiuso in questi momenti, il Teatro Colón, che è dove il sogno vero di Piazzolla era trionfare nel Teatro Colón di Buenos Aires, è riaperto proprio in questa data per fare un concerto dedicato a Sor Piazzolla. Piazzolla, la rivoluzione del tango di Daniel Rosenfeld, in streaming giovedì 11 marzo 2021. Un saluto e un ringraziamento a Iris Martin Peralta di Exit Media Distribuzione. Un abbraccio, un in bocca al lupo, a risentirci presto. Grazie a tutti gli ascoltatori. Il coregista Michele Mellara sul documentario 50 Sant'Arcangelo Festival su Io Resto in Sala online dal 15 al 17 marzo 2021. Michele, ben trovato. Grazie. Presentaci questo lavoro. Ma è un lavoro, come ricordavi, come al solito, co-diretto insieme ad Alessandro Rossi, col quale lavoro da tanti anni, ed è un documentario sulla storia di uno dei più interessanti festival delle arti della scena italiani, cioè Sant'Arcangelo Festival. Abbiamo debuttato alle giornate degli autori e adesso c'è l'anteprima bolognese, dopodiché a Marco di Leopardo si vedrà varie situazioni, cinema, musei, teatri in giro per l'Italia. Di cosa si tratta? È stata insomma una scommessa abbastanza ardua per noi, perché il documentario cerca di raccontare 50 anni, e quest'anno il festival ha compiuto 50 anni, appunto 50 anni della storia del Festival di Sant'Arcangelo, festival che è un punto di riferimento imprescindibile per le arti della scena italiane, perché dal festival sono passati più o meno tutti i grandi nomi del teatro italiano, cioè si fa prima a dire chi non è andato a Sant'Arcangelo Festival, Gassman e Bene, due nomi per dire, tutti gli altri più o meno ci hanno messo il naso. Noi abbiamo cercato di raccontare il festival avvalendoci una vasta mole di archivi, che abbiamo pescato sia all'interno dell'archivio fisico e fotografico del festival, ma anche in altri archivi, tra questi Techerai, l'archivio della Cineteca di Bologna, o Movie, e una parte di materiali che gentilmente, gratuitamente, ci ha donato Mario Martone, che negli anni 90 girò alcuni appunti visivi al festival. È un documentario quindi molto ricco, sia visivamente che narrativamente. Il problema è stato quello un po' di trovare una traccia narrativa che ci consentisse di raccontare per sintesi un'esperienza così entusiasmante e importante del teatro italiano senza perderci, e questa traccia l'abbiamo sviluppata seguendo principalmente due traiettorie. La prima è quella delle testimonianze dei direttori, delle direttrici del festival che abbiamo raccolto, sto parlando ovviamente dei direttori e delle direttrici tuttora viventi, e i materiali d'archivio che riportano le testimonianze dei direttori che non ci sono più, tra questi Pietro Patino, che fu il primo direttore del festival dal 71 al 77. e l'altra direttrice invece è un percorso narrativo segue appunto queste testimonianze in ordine cronologico, e l'altro invece è cercare di utilizzare i materiali d'archivio in una dimensione drammaturgica compiuta, cioè che potessero raccontare da un lato ed evocare anche lo spirito e la poetica degli anni in cui sono stati girati. E quindi gli spettacoli, per dire, vengono presentati con lampi, in modo molto spesso organizzato all'interno di sequenze di montaggio, in grado di restituire appunto il colore di un'epoca e anche le direttrici poetiche che animavano quegli anni. Che impressione hai ricavato facendo questo lavoro di ricerca? Innanzitutto che in un piccolo paese della Romagna si è svolta una delle attività culturali più importanti per il paese, nel senso che la tenacia e anche l'ostinazione di chi ha voluto, dire, mantenere in vita quella realtà, la realtà del festival. E dall'altro il fatto che il festival abbia avuto la possibilità di essere diretto da tante persone diverse, la curiosità, insomma, il fatto che comunque questo festival ha sempre mantenuto alta la curiosità nei confronti delle arti della scena, quindi non solo del teatro, delle arti della scena tout court. E questo, come dice il Sant'Arcangelo, è stato un osservatorio rispetto ai cambiamenti, all'avanguardia, alle nuove spinte artistiche che si muovevano in Italia, è stato un osservatorio privilegiato e preziosissimo. Da lì sono passati tutti i gruppi che poi hanno determinato anche la storia più interessante del teatro italiano: Martone, Castellucci, tutti i gruppi teatrali della Romagna, Mask, Motus, che poi sono gli attuali direttori del festival, Sani Alexander, e come dire, tantissimi altri nomi che con la loro partecipazione al festival hanno dato un segno molto, molto evidente del movimento delle arti della scena. Per conoscere tutte le varie tappe del futuro percorso in sala, ci lasci dei riferimenti internet? Il documentario è distribuito da Wonder Picture, quindi nel sito web di Wonder c'è la possibilità di trovare i riferimenti per vedere come sarà proiettato il documentario, così come all'interno del sito della nostra società, la Mammoth Film, che ha prodotto il documentario, mammothfilm.it. Un abbraccio, in bocca al lupo e alla prossima. Viva il lupo e grazie a voi. A presto. Il coregista Michele Mellara sul documentario 50 Sant'Arcangelo Festival su Io Resto in Sala online dal 15 al 17 marzo 2021. Con il regista Bruno Oliviero per presentare il suo documentario Cattività online da venerdì 12 marzo 2021. Bruno, ben trovato. Ciao Federico, buonasera. Ci presenti questo lavoro? È stato un percorso molto lungo. È per me un ritorno al documentario dopo un po' di finzione di lavoro sulla sceneggiatura. Ed è un lavoro che sembra essere un lavoro sul teatro in carcere, ma come dire, ho l'impressione che ne abbiamo visti tanti di film sul teatro in carcere, ma in realtà per me è stata un'esperienza di incontro con delle donne di mafia che attraverso un laboratorio teatrale hanno raccontato la loro infanzia, per cui io mi sono più concentrato sui loro racconti che non sulla questione del laboratorio teatrale o del come arrivavano a quella cosa lì, ma piuttosto a cercare queste donne ormai mature, chiuse in carcere per reati anche gravi, l'infanzia che veniva fuori durante i loro racconti. Andando dalla chiesa a un certo punto ha detto: questo film mostra che c'è una nuova modalità di poter fare antimafia, cioè rivolgersi all'infanzia anche dei mafiosi, che non hanno sicuramente dimenticato. Come è nato tutto il progetto del film? Beh, è nato dalla conoscenza con Mimmo Sorrentino, che è un autore di teatro partecipato, un autore storico del teatro partecipato italiano. Mimmo ha iniziato a lavorare con Dolci negli anni 70 e la conoscenza con Mimmo per me era un po' una necessità, perché quando ho iniziato a fare finzione mi ponevo il problema degli attori dentro storie che io trattavo nella finzione reali, come avrebbero dovuto interpretare quella realtà. Quindi è nato inizialmente da una mia questione, diciamo, di ricerca stilistica anche nella finzione, E poi quando Mimmo mi ha raccontato questo lavoro che stava facendo, cioè su questi racconti d'infanzia, è coinciso col momento in cui Luca Mosso, che è un mio amico da anni, aveva incontrato per caso anche lui Mimmo Sorrentino, e tutti e due siamo telefonati dicendo: guarda che c'è un film straordinario da fare nel carcere di Vigevano, ci sono delle mafiose che stanno raccontando la loro infanzia. E in quel momento io e Luca ci siamo messi a scrivere con Mimmo, e poi il film ha avuto una gestazione abbastanza lunga e anche forse a un certo punto complessa, perché era a cavallo con altri miei progetti, ma la partecipazione di Rai Cinema prima, il produttore di Nato a Casal di Principe, Amedeo Letizia e Mariella Ritacchi, e poi il Ministero ci hanno poi permesso di fare il film con tutti i crismi e di arrivare a quel punto lì, a cui siamo arrivati, che spero che sia almeno il film che io avrei voluto fare. Da anni, tra parentesi, in questo senso dico che è un ritorno al documentario, perché è un modo di portare per me delle istanze della finzione che avevo fatto fino a quel momento nel documentario. Che impressioni ne hai ricavato? Che impressioni ne ho ricavato? Intanto questa forza di resilienza che anche vite distrutte dal contesto nel quale sono cresciute continuano ad avere quando vengono attivati i ricordi e quando vengono attivate parti pure della loro esperienza. E questo ovviamente mi ha molto commosso, perché queste donne, mentre cambiavano dentro, ovviamente soffrivano, e più scoprivano che la loro infanzia era stata devastata dall'incontro con il sistema delle famiglie mafiose, più gioivano e più soffrivano. Era un processo che era molto impressionante. Io spero di averlo restituito nel film. Cioè, era un po' questo poi il mio obiettivo, una volta che abbiamo completato le riprese, era quello di restituire questo dolore del cambiamento. È un dolore gioioso, però è comunque un dolore. Questo è quello che mi ha molto impressionato e spero di essere riuscito a restituire. Ho avuto nel corso del tempo diversi confronti rispetto a questo percorso del mondo dell'arte legato al mondo carcerario. Da sempre una valenza estremamente positiva sulle persone e anche sulla possibilità poi di porre le basi di una nuova vita. Ma sai, è l'incontro col male che ti sembra sempre un territorio di uscita dalle cose tue, poi ti accorgi che invece è un territorio di congiunzione con le cose estreme che vivi, no? E che forse non le vivi fino in fondo, mentre invece lì in carcere tu incontri delle persone che hanno vissuto paradossalmente profondamente la loro vita, cosa che a volte per me ci sfugge un po'. Poi il cinema è così pieno di criminali che a volte per andarle a vedere da vicino nella loro realtà umana diventa proprio un'esperienza infrancante, no? Per chi racconta. Credo che sia questo quello che succede poi in quel momento lì. E anche per me, questa è una mia preoccupazione da sempre, e continua ad esserlo, e continuo a lavorare su quell'ambito lì. Un ambito di uscita dai cliché, di incontro con le istanze estreme, no? Della realtà, però è sempre molto incredibile. Cioè, Freud giustamente dice: noi siamo tutti degli assassini, perché col nostro inconscio ogni giorno seguiamo gli ostacoli che si frappongono a noi assassinandoli. Poi per fortuna ci sono le convenzioni sociali, però questa parte di noi rimane forte e in carcere la incontri. Per me è stata un'esperienza un po' rifondante, perché dopo tanti film, e qui si è dato anche il lavoro di sceneggiatura che abbiamo fatto con Leonardo Di Costanzo per il suo prossimo film, è stato molto importante. Poi io è la prima volta che entravo in carcere in 45 anni di vita. E la prima volta è proprio molto impressionante, cioè capisci che è proprio veramente un luogo infame, dove se non ci sono esperienze come quella che ho seguito io, come ce ne sono state tante altre, la rieducazione è impossibile, non è nemmeno un'utopia, è proprio una bugia. Bruno, in chiusura ci lasci tutti i riferimenti internet per saperne di più? C'è 102 distribuzione, e quindi immagino che sul sito di 102 trovate tutte le informazioni. Lo produce Quality Film di Amedeo Letizia e Mariella Ritacchi, e quindi sul sito di Quality Film troverete, immagino, tutte le informazioni. A me piace molto proiettarlo e incontrare il pubblico davvero, e sono veramente orfano di questa esperienza, anche se siamo riusciti a settembre 2020, in un piccolo momento di apertura, a fare un po' di proiezione. Questo mi manca molto, ecco, Federico, questo immagino a tutti, ma non mi voglio affondare il coltello nella piaga. Il documentario Cattività, online da venerdì 12 marzo 2021. Un saluto e un ringraziamento al regista Bruno Oliviero. Un abbraccio, in bocca al lupo, a risentirci presto. Grazie a te. Ciao Federico, a prestissimo. Ciao. Con Matteo Ferrarini, regista del documentario Etbet. Matteo, ben trovato. Ciao Federico, grazie mille. Ci presenti questo tuo lavoro? Con Etbet ho cercato di, diciamo, tirare le fila 10 anni dopo lo scoppio della primavera araba in Egitto. Ora, faccio una premessa, ovvero che io non vengo dal mondo del giornalismo. Sono un regista a cui piace principalmente cercare di dare uno spaccato umano ad ogni storia e quindi anche in questo caso ho utilizzato questo approccio, senza nascondere il fatto di avere anche timore, spesso e volentieri, di toccare la storia contemporanea nel momento in cui ancora è difficile da decifrare. Mi sono sentito di farlo appunto attraverso dei personaggi, quindi la storia di umani, perché ho avuto questa sensazione che ho voluto ridare nei film di come spesso uomini, donne, ragazzi, giovani e anche meno vengano utilizzati, illusi dalla storia, quella ufficiale da mainstream, per poi invece essere buttati come se fossero rifiuti. Ho voluto riprendere la storia di queste persone appunto dopo 10 anni per ridare la giusta luce che secondo me meritano, ovvero di quale sia la loro reale situazione umana loro e situazione nazionale, non solo a livello egiziano, ma direi abbastanza di una geopolitica, se non altro, tirando in ballo tutta l'Europa. Dopodiché sono sicuro che sarebbe anche più grande l'argomento in sé. Com'era nato il progetto? Da un incontro casuale con Ahmed Ali a Barcellona. Da un incontro è nata una piccola amicizia, lui era qua, è uno dei personaggi, quello più giovane. Lui è rifugiato, scappato 4 anni fa dall'Egitto, altrimenti avrebbe avuto come patrizzacchi, anzi a lui gli avevano già dato dopo il processo 25 anni, il processo che patrizzacchi sta attendendo ancora. E quindi lui, quando ha scoperto questo, è riuscito a scappare all'estero. Ci siamo incontrati a Barcellona perché lui stava facendo attivismo, ovvero cercava nel Parlamento catalano appoggi diplomatici, principalmente anche solo per denunciare quale sia la situazione, dato che la stampa mainstream qui in Europa non ci dà la reale visione di ciò che succederà. E conoscendo questo ragazzo, sarà che è anche più giovane di me, ma diciamo che ho capito quello che ho detto prima, ovvero il fatto che è una persona normale. I rivoluzionari sono semplicemente persone come noi che semplicemente hanno giustamente una necessità di più libertà e più giustizia sociale. In questo ci avvicina, diciamo, a chiunque di noi, o perlomeno a chi decide di provare a sporcarsi le mani e mettere mani nella storia. E come dicevo prima, la sensazione qual è stata? Quella di essere state usate. 10 anni fa, sul grande schermo per tutto il mondo, i grandi rivoluzionari che chiedono la democrazia, per poi cambi di regime, per il bene, diciamo, dell'economia e dei poteri forti, questi vengono considerati terroristi. Ecco, a proposito del regime egiziano, come emerge anche dal tuo documentario, vari mezzi per azzittire l'opposizione, dalle sparizioni forzate alle torture alle rappresaglie sui familiari. Sì, ci sono leggi per far capire quale sia la realtà proprio quotidiana, che dicono che dopo, credo, 2000 follower, o forse anche meno, su Facebook, chiunque è considerato quindi perseguibile come un giornalista che dice il falso. Questo significa che se tu dici hai tot amici, diciamo, sui social, immaginiamo le generazioni più giovani che vivono sui social, è giusto o sbagliato che sia, si ritrovano che semplicemente per dire la propria idea si ritrovano magari alla fine. Patrick Zaki, faccio questo nome come per noi è Giulio Regeni perché sono quelle storie che a noi sono arrivate. In realtà si parla di migliaia di persone. Questo fa capire un po' qual è il livello di libertà di espressione in Egitto. Che tipo di circuitazione stai mettendo in campo per il tuo documentario? Al momento attuale, che è stata l'emozione più forte, sono andato in onda con BBC Arabic su tutto il mondo arabo, compreso l'Egitto. Sinceramente parlo di emozione, nel senso che da una parte era un patto che avevo preso, diciamo, con gli attivisti, perché vedono comunque il film come una parte della lotta, ovviamente. Dall'altra ho temuto e tuttora temo per le ripercussioni, comunque ognuno di loro. Mohamed Lotfi, uno dei tre personaggi, vive ancora a Cairo, mentre gli altri ragazzi che sono scappati hanno comunque genitori, fratelli, amici, che sono comunque in mano a un regime abbastanza vendicativo e violento. Questo era BBC, dopodiché siamo andati su France 3 Corsica, in estate andremo su France 3 Nazionale, siamo andati su RTBF in Belgio, e adesso lo stanno scrivendo il festival, comunque appena uscito, di gennaio 2021. Incrociamo le dita, ecco. Ci lasci tutti i riferimenti web per saperne di più? Abbiamo una pagina Facebook che si chiama EPET, da lì si può sapere qualsiasi cosa riguardo il film, e al momento è anche su Amazon Prime Italia. Al momento in Italia l'unica maniera di vederlo è questo, dopodiché ci auguriamo anche di avere una distribuzione teatrale. Ovviamente adesso siamo nelle mani di questa pandemia, quindi vederci dal vivo non lo so, quindi al momento la visione è su Prime Video. Il documentario EPET. Un saluto e un ringraziamento al regista Matteo Ferrarini. Un abbraccio, in bocca al lupo, a risentirci presto. Grazie mille, spero presto e grazie di tutto. Con Gabriele Diverio, direttore della 20ª edizione del Glocal Film Festival, dall'11 al 15 marzo 2021. Ben trovato. Grazie mille per l'invito. Raccontiamo cos'è questa realtà. È una domanda questa che mi piace in realtà, perché è sempre molto motivo di orgoglio raccontarla. È una realtà piccola che ormai però è arrivata alla 20ª edizione, una rassegna che nasce per far sapere ai cittadini torinesi che il cinema veniva girato anche sotto casa loro, è una rassegna che poi col tempo è diventato un festival vero e proprio, perché le produzioni non sono più state la novità da promuovere, ma la qualità è stato l'elemento che si voleva mettere sotto gli occhi delle persone. E quindi l'associazione Piemonte Movie, che organizza questa rassegna, ha deciso di porre l'obiettivo e l'attenzione sui cortometraggi e sui documentari, che sono due generi che hanno un grandissimo seguito a Torino e nella regione Piemonte, e da allora facciamo questa attività, secondo me molto importante, di scouting dei nuovi talenti e di visibilità nei confronti di opere che spesso faticano a farsi notare. Come si caratterizza questa edizione online? Questa, ahimè, sarà un'edizione online. Ci abbiamo sperato fino all'ultimo che si potesse almeno andare in sala, nella nostra sala, al Cinema Massimo, almeno con una capienza ridotta, invece no, ma va bene, non siamo abituati a scoraggiarci, quindi abbiamo stretto una collaborazione con la piattaforma Stream, con 3e.org, e questa piattaforma ci darà la possibilità, cosa inusuale per noi, di presentare la nostra proposta cinematografica a tutta Italia, quindi sarà anche un bel momento per capire se abbiamo consensi anche fuori dalle nostre mura. Sarà un'edizione un po' più snella rispetto a quella degli altri anni, perché secondo noi alcuni aspetti fondamentali del cinema vanno vissuti in sala e quindi non volevamo costringerli all'interno di uno spazio virtuale. Ci sarà però chiaramente spazio per i nostri due concorsi, Spazio Piemonte per i cortometraggi e Panoramica Doc per i documentari lunghi, e un film d'apertura importante di cui, se volete, a breve vi parlerò, e un premio anche, che è quello riservato a Carlo Alberto, che consegneremo alla scenografa Paola Bizzarri. Quante opere nel complesso? Daremo 33 titoli in 5 giorni, dall'11 al 15 marzo. Come saranno strutturate le giornate? Cerchiamo sempre di dare una diversità di prodotto, e quindi ci saranno sempre i blocchi di Spazio Piemonte oppure altri due focus che quest'anno sono un po' una novità. Ci sarà la possibilità di interazione con il pubblico? Sì, prima delle proiezioni sulla piattaforma Stream avremo sempre delle dirette dalla nostra pagina Facebook, durante le quali chiacchiereremo con gli autori dei film che di lì a breve partiranno, e in quell'occasione chiaramente il pubblico può interagire scrivendo nei commenti della live di Facebook e facendoci delle domande. Come si è sviluppato il festival nel corso degli anni? Ma il festival ha preso una traiettoria molto precisa, che è quella appunto del presentare opere di grande qualità. I 6 documentari di Panoramica Doc che abbiamo quest'anno in gara sono stati presentati prima di noi in festival importanti come quello di Roma o il Festival dei Documentari di Tessalonico. Sono opere che girano l'Europa, vincono premi e spesso però magari ha visto il set, perché appunto, come dicevo prima, stavano girando sotto casa, non le conosce neanche. Quindi l'obiettivo è valorizzare le opere del territorio, facendo notare che sono locali, perché nascono da qua, vuoi per il regista che è di qui o della casa di produzione, ma ragionano in un modo molto globale, raccontano storie universali che interessano tutto il mondo e che hanno una ricaduta diretta sul territorio. Si sta sviluppando anche nel corso dell'anno il festival, oltre che nelle date effettive di svolgimento? Assolutamente, questa è una delle tante attività che l'associazione Piemonte Movie porta avanti. Noi abbiamo delle rassegne che riusciamo a organizzare in collaborazione con tante sale cinematografiche della regione Piemonte e durante l'anno di solito facciamo circuitare queste opere, e che è anche una nota secondo me molto importante da sottolineare, perché spesso i festival, una volta che sono finiti, invece noi cerchiamo di dare un supporto concreto poi alle produzioni, garantendo un minimo di circuitazione regionale. Oltre a questo, chiaramente abbiamo tante altre attività, laboratori, altri concorsi. Il Glocal è un po' il cuore pulsante delle attività dell'associazione, perché poi da qui si sviluppano tanti nuovi progetti. E questa domanda tua, tra l'altro, mi permette di parlare anche del film d'apertura, il manuale di storie dei cinema, che è realizzato da 2 giovani autori, Stefano D'Antuono e Bruno Ugioli, perché noi vedremo l'11 marzo questo documentario lungo, ma questo documentario è solo l'ultimo dei passaggi che sono partiti con la partecipazione a un nostro concorso che si chiamava Torino Factory, in cui in meno di 3 minuti i registi dovevano raccontare la città di Torino. I 2 ragazzi hanno deciso di raccontare il rapporto d'amore tra Torino e le sale cinematografiche. Il loro cortissimo è diventato un corto di 30 minuti e poi Davide Ferrario, il famoso regista, ha deciso con la sua casa di produzione Rosso Fuoco di svilupparlo e farlo diventare un lungometraggio, e quindi torna a noi in questa veste nuova in anteprima assoluta. Quindi questa è proprio la chiusura del cerchio delle nostre attività. Ci lasci tutti i riferimenti web? Consiglio sempre di seguire il nostro sito, ovviamente piemontemovie.com, ma soprattutto la pagina Facebook Piemonte Movie Local Network, perché è lì che siamo più presenti in modo quotidiano, e dal nostro sito avete la possibilità di scaricare il catalogo di questa edizione, che sotto ogni scheda avrà il bottone acquista biglietto che vi rimanderà alla piattaforma stream.org, che oltretutto da pochissimo ha introdotto anche il pagamento con Satispay, quindi potete veramente in 3 click avere il vostro biglietto a 3,50 € oppure l'abbonamento a 12 €. 20ª edizione del Glocal Film Festival su stream.org dall'11 al 15 marzo 2021. Un saluto e un ringraziamento al direttore Gabriele Diverio. Un abbraccio, in bocca al lupo e alla prossima. Credi, e grazie mille per averci dedicato questo spazio. Seguite il Glocal. Con Martina Schmid, direttrice artistica della prima edizione di Max Tremin Very Short Film Festival dal 10 al 21 marzo 2021. Ben trovata! Ciao, come state? Tutto bene, tu? Io sto benissimo, un po' in ansia perché inizia il festival ed è la prima edizione, però per il resto contenta. Ce lo presenti? È un festival nato a ottobre e la cosa bella è che da un'idea nata nel lockdown precedente nella mia testa sono stata molto fortunata a trovare delle persone che hanno fatto diventare un'idea una cosa reale, perché le persone che mi aiutano sono veramente stati bravissimi, e il taglio è questi 3 minuti, nel senso che non è una cosa, la contemporaneità del fatto che adesso nessuno ha tempo, ma in realtà anche che in 3 minuti o in tempo corto uno può anche raccontare un quadro, in fondo lo vedi in un istante, no? Poi è nato in realtà perché io ho fatto tanti video musicali, le canzoni durano intorno ai 3 minuti. Negli anni 90 ho visto per ore e ore e ore La noce dei publivori, e per cui mi drogiolavo in quell'idea dei tempi corti in cui possono nascere delle cose belle. Per cui abbiamo chiesto al mondo, e perché vogliamo essere worldwide, perché così

con Vito Zagarrio, direttore artistico del Palladium Film Festival Cinema Oltre, su mymovies.it dal 9 al 14 marzo 2021. Ben trovato! Bentrovati voi. Palladium Film Festival significa che avremmo dovuto farlo al Palladium. Come sapete, questo è un festival nato al Teatro Palladium, che è un teatro di Roma 3, è un teatro universitario. Infatti, negli anni scorsi si è chiamato Roma 3 Film Festival. Ora però volevamo dare dignità al luogo in cui si svolge, che è questo salotto della Garbatella, diciamo, era un ex cinema dove abbiamo fatto tante cose belle, abbiamo restaurato anche un proiettore 35 mm, però la pandemia ci impone di farlo online e questo ci dispiace. D'altra parte, farlo online su MyMovies significa anche delle cose più positive, significa arrivare a più gente, significa inventarsi anche dei modi nuovi di veicolare il cinema sulle piattaforme. D'altra parte, non possiamo essere solo nostalgici della sala cinematografica, ormai il cinema è qualcosa anche di molto più complesso, quindi lo facciamo online, ma io penso che raggiungeremo tanti spettatori perché la formula di quest'anno è molto bella. Intanto il sottotitolo è Cinema Oltre, cioè ci interessa lavorare sul concetto di oltre, oltre i muri, per esempio, che è una delle sezioni, no? Bisogna superare i muri etnici, i muri anche della claustrofobia, i muri della pandemia, dello stare chiusi. Alcuni film proprio rappresentano questo stato mentale, non so, il film Fortezza di Emiliano Aiello, che si svolge in un carcere, oppure Privat stesso di Saverio Costanzo, che è tutto dentro una casa che dovrebbe essere Palestina, anche se è girato in Calabria. E poi altri film di questa sezione, tipo il caso Braivanti, quindi i muri del pregiudizio, Buio di Emanuela Rossi e Di Sipazio di Filippo Ticozzi, che sono sempre sul tema delle chiusure. Quindi Cinema Oltre significa superare i limiti dell'etnia, i limiti della razza, i limiti del gender, attenzione alla periferia, attenzione ai momenti borderline. Anche, per esempio, c'è un film interessante che è un documentario sul cinema popolare degli anni 60-70, che lì è Oltre, fatto da un inglese, soprattutto organizzato nell'ambito della University of Kent in Inghilterra. Quindi anche lì significa andare oltre il concetto di genere o di mainstream. E poi l'attenzione al gender. Per esempio c'è una retrospettiva su Susanna Nicchiarelli, che è ancora giovane ma che ha fatto dei film su cui già si può fare un ragionamento, da Cosmonauta sino a Nico, sino a Miss Marx. Quindi una donna su cui dobbiamo riflettere. Oppure un uomo che è Saverio Costanzo, che anche lui ha un percorso molto interessante, da Private alla Solitudine dei Numeri Primi a Hungry Hearts, con cui abbiamo fatto, devo dire, una bella intervista dal vivo. Poi l'intervista dal vivo insieme anche a Paolo Giordano, che è l'autore di La Solitudine dei Numeri Primi, il romanzo, la mettiamo su MyMovies, ma alcune interviste sono fatte dal vivo e poi registrate e poi messe su MyMovies, altri sono degli Zoom o sono degli altri tipi di incontri. Abbiamo mescolato, insomma, il dal vivo e il a distanza con Zoom e altri lo Skype. Quante sono nel complesso le opere? Sono tante, perché sono molti corti. Noi abbiamo, per esempio, intanto 15 corti, che è un concorso che tradizionalmente si chiama Carta Bianca DAMS, perché partiva proprio dagli studenti dei DAMS, adesso c'è un limite d'età ma è aperto a tutti, e ci sono 15 opere molto interessanti. Di corti c'è anche una selezione di corti delle scuole di cinema, La Rufa, il centro sperimentale in testa, con dei film molto belli, ma anche La LUC, la Libera Università del Cinema, quella di Sofia Scandurra, che partecipa, che ha coprodotto con noi un film finanziato dalla SIAE, La Volonté. Ecco, insomma, monitorare tutta la parte educativa che ci sta molto al cuore, no? Le scuole di cinema, i giovani, la formazione, eccetera. E poi ci sono i 5 film della Nicchiarelli, i 4 film di Costanzo. Insomma, poi per esempio ci sono video sperimentali, Pippo Del Bono con un gruppo catanese che fa una performance, delle masterclass di Alvaro Orvacher, un incontro con questa attrice ormai molto nota, e con Pivio, questo Davide Donatello, Pivio e Aldo Descalzi hanno vinto tanti premi come musica, sempre con le sinergie interne, Pivio perché ha fatto le musiche del film di Braivanti, Rolvacher anche perché è stata l'attrice di Costanzo, eccetera, eccetera. Quindi se vedete il programma c'è una serie di echi interni e di fili rossi che mi sembrano molto interessanti.

su www.mymovies.it/ondemand/cinemovel è possibile prenotare un posto all'interno della sala. Sul sito di Screaming Class, che è www.cinemovel.tv/sic, è possibile trovare tutti i kit didattici che sono proposti anche gratuitamente per tutte le scuole che decidono di aderire al progetto. Prima edizione di Screaming Class Film Festival su mymovies.it dal 15 al 19 marzo 2021. Un saluto e un ringraziamento ad uno dei curatori, Enzo Bevar. Un abbraccio, un in bocca al lupo, a risentirci presto. Grazie a voi, a prestissimo Federico. Con Umberto Parlagreco, uno dei curatori del progetto Cronache dal Cinematografo. Umberto, ben trovato. Ciao, ciao a tutti, grazie di avermi invitato. Cronache dal Cinematografo è un progetto che era nato prima della pandemia in una maniera molto piccola, nel senso che era un blog che avevo aperto per raccontare un po' le cose che succedevano nei cinema. Io ho un cinema e mi sembrava molto carino e divertente raccontare quello che succedeva dentro il cinema. Poi c'è stata una pandemia che ci ha chiusi e quindi non avevo più storie da raccontare, ma per fortuna durante questa chiusura ho avuto modo di conoscere Valentina Guglielmo, che è una distributrice che pazzica il mondo del cinema, e parlando abbiamo pensato di trasformare questo progetto in un podcast che finalmente ha preso corpo. È già uscito, insomma, la puntata zero di presentazione. Ci racconti un po' com'è nata l'idea? Parlando sempre con Valentina e frequentando soprattutto tanti colleghi e tante persone che lavorano nelle sale cinematografiche, perché chiaramente un anno di chiusura ci ha permesso di creare una rete molto fitta sotto il motto da Mal Comune Mezzo Caudio, quindi ci siamo parlati moltissimo. Ci siamo resi conto che le storie che ruotano attorno alla sala cinematografica coprivano una gamma di emozioni che era veramente vastissima, da cose molto divertenti ma anche emozionanti, commoventi. E così abbiamo iniziato a registrare un po' di voci di persone appunto che lavorano nei cinema, da esercenti come me, ma anche proiezionisti, cassiere, trasportatori, ed è venuto fuori uno spaccato secondo me molto bello di gente che comunque è appassionatissima a questo lavoro e che forse in questo anno meritava perlomeno un po' più di attenzione mediatica, perché di fatto noi come settore siamo spariti per un bel po' dal dibattito pubblico. Quante testimonianze hai raccolto finora? Siamo attorno a una decina, ma ne abbiamo molte altre in cantiere. Noi andremo avanti finché avremo una storia da raccontare, ovviamente. Quindi non abbiamo un'idea di quando poi diremo basta. Sicuramente andremo avanti un po' di mesi, ecco, visto quello che abbiamo raccolto, perché abbiamo raccolto davvero tante cose belle. Dove ti stai muovendo? Stiamo intervistando gente di tutta Italia. Io il cinema ce l'ho a Messina, ma come sai ormai i confini non hanno significato, nel senso che Valentina registra da Berlino, per esempio. La prima sarà mia mamma, per esempio, ma per un fatto molto, molto semplice, a parte che è stata 40 anni a lavorare nel cinema, ce l'avevo qua, per questo non siamo podcaster professionisti, per cui mi serviva una persona che all'occorrenza potevo richiamare per registrare pezzi, no? E quindi mia mamma è stata la scelta più logica, ma poi una parte mia mamma siamo andati a Bologna, a Cura Marittima, sulle Alpi persino, per Milano, insomma, abbiamo raccolto le testimonianze di ogni città dello stivale, diciamo. Come procederete? Come vi state muovendo? La nostra idea è comunque dare un po' di varietà alle varie puntate, cioè non intervistare sempre le stesse figure, perché magari il ruolo dell'esercente è quello che è più immediato quando si pensa alla sala cinematografica, ma per esempio nessuno pensa al fatto che ci sono anche coloro che trasportavano le pellicole e oggi trasportano gli hard disk, che come sappiamo le pellicole non ci sono più, che comunque lavorano grazie al cinema. Ci sono delle storie di professionisti che sono bellissime, ma anche le agenzie, quelle che fanno da intermediari tra distribuzioni e esercenti, che hanno delle storie che sono incredibili, di pellicole che non si trovavano più, ma che poi bisognava andarsene a cercare. Insomma, c'è tutta una questione anche avventurosa dietro che ci piace indagare, ci piace indagare. Le interviste che formato hanno? Che durata? Abbiamo cercato sempre di mantenerci al di sotto dei 60 minuti, che è più o meno è la durata media di un podcast, quindi andiamo dai 40 ai 55 minuti. Qualcheduna dura un pochino di più, ma è perché sono molto dense anche di cose da raccontare. Per esempio, mi viene in mente l'intervista che abbiamo fatto a chi gestisce il Cinema Galliera di Bologna, no? Loro sono molto attivi, molto simpatici e molto vulcanici, e lì andiamo oltre un'ora, però non più di un'ora e un quarto, ecco, la durata massima quella. Ci sono racconti che ti hanno impressionato maggiormente? Ci sono racconti che mi hanno molto emozionato. Ne cito uno perché mi ha molto ricordato la mia infanzia, perché io in cinema non ci sono cresciuto, io in cinema l'ho ereditato da papà. Abbiamo intervistato un vecchio professionista, un cinema Margherita di Cupra Marittima, 80 anni oggi, che ci raccontava un po' quello che era fare il proiezionista negli anni 60-70, che quel periodo in cui iniziò mio papà a lavorare. Io ora sono del 75, quindi i miei ricordi sul cinema fatto dagli anni 80, però era un po' più o meno la stessa cosa, perché quei racconti lì mi hanno molto molto molto emozionato, proprio per una questione personale. Sembra di essere dentro il nuovo cinema paradiso, tanto per intenderci. Come vedi nel prossimo futuro il rapporto tra la sala e il digitale? Io guardo, dico sempre una cosa, noi chiaramente da molti anni a questa parte la pellicola è sparita, per cui ci siamo digitalizzati, però il sistema pensa ancora in termini di pellicola. La digitalizzazione, se intendevi questo della propria proiezione, ci permette di ampliare tantissimo l'offerta e ancora non l'abbiamo sfruttata come dovrebbe essere sfruttata. Se invece intendevi forse il rapporto con le piattaforme, con un altro tipo di digitalizzazione, io credo che si dovrà trovare un nuovo punto di equilibrio, perché comunque il mondo va avanti e il cinema non può pensare come sala di poter sopravvivere come se fossimo ancora in un mondo senza internet, senza piattaforma. Io credo che comunque alla fine un punto di equilibrio si troverà e che la sala comunque avrà modo di continuare a essere un punto centrale nella vita delle persone. Ci dai tutti i riferimenti web? www.cronacadelcinematografo.it. Abbiamo delle pagine social, sempre Cronaca del Cinematografo, ci trovate sia su Facebook che su Instagram, e siamo presenti su tutte le maggiori piattaforme di podcasting, da Spotify a Apple Podcast, eccetera, eccetera. Sempre Cronaca del Cinematografo, ci trovate tranquillamente dappertutto. Se ci volete scrivere, la mail è info@cronacadelcinematografo.it. Vorrei chiudere in bellezza chiedendo di cosa rappresenta per te la sala cinematografica. Ti racconto quello che è successo. Io non dovevo fare questo mestiere, io che avevo problemi con la mia famiglia, insomma era il classico adolescente giovane ribelle, cioè. Quando mio padre poi nel 2009 ebbe una malattia, insomma io ereditai il cinema, una persona, la detta ai lavori, un'amica di mio padre, scese in Sicilia da Roma e mi disse: guarda, il cinema è una malattia, o ce l'hai o non ce l'hai. Inizialmente io pensavo di averla perché mi sono appassionato subito al lavoro del cinema, tra l'altro facendo le stesse cose che rimproveravo per mio padre, cioè mio papà l'ho conosciuto meglio dopo la sua scomparsa, purtroppo. Però io penso che non sia proprio una malattia, perché devo dire che il lavoro del cinema mi ha curato tante cose, per cui forse è una cura più che una malattia. Cronache dal Cinematografo, un saluto e un ringraziamento ad uno dei curatori, Umberto Parlagreco. Un abbraccio, grazie, un bocca mille al lupo, a risentirci presto. Grazie, grazie mille, ciao a tutti. Paola Scarnati dell'AMOD presenta il volume numero 21 degli annali della Fondazione Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico, dal titolo Le lotte e l'utopia 1968-1970, il progetto e le forme di un cinema politico. Presentazione online giovedì 11 marzo 2021 sulla pagina Facebook dell'archivio e sul suo canale YouTube. Paola, ben trovata. Grazie, ben trovati voi, grazie dell'invito. Partiamo dal progetto complessivo, il progetto e le forme di un cinema politico. Ce ne parli un po'? Beh, quello è un progetto iniziato nel 2017, in occasione del centenario della rivoluzione di ottobre, e in quel caso abbiamo iniziato a lavorare su questo progetto facendo un'iniziativa particolarmente interessante, questo secondo me, su quello che era stato anche il cinema politico, che nasce in quel momento in cui nascono tante cose, in cui c'è una rivoluzione così travolgente. Basta citare, diciamo, Asimov, Zigaretov. Infatti abbiamo proiettato molti di quei film che hanno avuto un successo, diciamo, strepitoso, perché il cinema politico che nasce in quegli anni è pieno di sperimentazione, di ricerca, è un cinema che ancora oggi ci colpisce per il suo interesse, per il suo linguaggio. Poi questo progetto naturalmente ha continuato ad andare avanti con tutte queste iniziative, che non sono soltanto delle iniziative di proiezioni e di discussioni, ma sono anche appunto di riflessioni su quello che è successo in quegli anni. Appunto c'è stato poi il 68, l'anno degli studenti, con tutta la produzione dal basso che c'è stata, e poi sulle lotte all'utopia, in particolare su quello che è stato il 69 e il 70 anche in questo paese, che sono stati anni veramente che hanno cambiato il paese. Sono stati gli anni delle manifestazioni operaie e delle conquiste operaie in tanti settori. Tra l'altro noi poi siamo andati avanti, perché l'anno scorso purtroppo, in un momento in cui si poteva fare niente insieme, abbiamo fatto una iniziativa sul cinema dei movimenti, anche quello interessante, purtroppo, ripeto, in un momento di lockdown. E stiamo continuando ad andare avanti, eh. Adesso quest'anno stiamo ragionando e riflettendo in occasione del centenario del PC, e quindi sul cinema proposto dal PC, che poi tra l'altro è un progetto ancora più complesso, perché è suddiviso in due moduli. Uno che faremo a maggio, appunto sulla produzione del PC in particolare, e un altro che speriamo di riuscire a fare a novembre, più in generale sulla sinistra del cinema. Invece questo volume si riferisce appunto agli anni 68, 69, 70 e alla riflessione che abbiamo cercato di fare su quel periodo, su come il cinema, anche il cinema dal basso, ha raccontato quello che stava succedendo. Com'è strutturato questo numero? Questo volume è strutturato in quattro parti, appunto uno sul progetto del cinema politico, su che cosa voleva essere, vuole essere il cinema politico, un altro quali sono poi le forme, che sono tante, sono varie, vanno dal cinema della fantascienza al cinema anche della musica, del cartone animato, insomma vanno in tante direzioni. Poi c'è una terza parte che abbiamo intitolato la transpolitica, appunto che comprende tutta una serie di settori diversi, e infine un'ultima parte, la quarta, che in particolare si sofferma solo su alcuni dei film che abbiamo esaminato, perché certo non riuscivamo a metterci tutti i film che abbiamo esaminato, ma abbiamo selezionato una serie di film come Enrico Torino, Viaggio nel Vietnam di Scola, oppure La Fabbrica, o anche delle esperienze particolari come quel concerto in fabbrica, che è un film di Maurizio Rotondi, di un concerto, di un'iniziativa degli operai a Genova, di concerto in cui tutti gli operai potevano entrare nel concerto naturalmente senza pagare. Insomma, poi ce ne sono anche altri, tutti molto interessanti. C'è anche un'intervista di Giovanni Spagnoletti a Liliana Cavani, e poi naturalmente non potevamo non finire con Un Contratto, il film di Ugo Gregoretti, che tra l'altro era morto da poco, quindi era anche un omaggio a lui, ed è un film che è un capitolo a parte nella storia del cinema italiano. Nel complesso, quanti sono i film che avete preso in esame? Una cosa è quelli su cui abbiamo lavorato, e una cosa naturalmente è quelli che abbiamo messo nel volume, perché non ce la facevamo a mettere tutto quanto, certo, quello che abbiamo appunto proiettato, sui quali abbiamo ragionato. Sono una decina quelli che sono nel volume, e naturalmente, come dicevo, quelli invece proiettati sono invece una trentina, e sempre abbiamo o presentati o discussi o insomma sui quali abbiamo ragionato. Per il numero 21 degli annali, dove bisogna dare un'occhiata su internet per maggiori informazioni? Maggiori informazioni si possono chiedere direttamente naturalmente in archivio, info@amod.it. Poi per richiedere il libro si può chiedere direttamente all'editore, e poi presto lo metteremo anche sul sito dell'archivio, come ci sono tutti gli altri volumi degli annali. Un abbraccio, in bocca al lupo, a risentirci. Grazie, grazie a voi, e mi raccomando, comprate il libro, leggetelo, e poi così continueremo tutti insieme a ragionare su quello che è stato e quello che continueremo a fare. Paola Scarnati dell'AMOD presenta il volume numero 21 degli annali della Fondazione Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico, dal titolo Le lotte e l'utopia 1968-1970, il progetto e le forme di un cinema politico. Presentazione online giovedì 11 marzo 2021 sulla pagina Facebook dell'archivio e sul suo canale YouTube. Con Barbara Goretti per presentare Ritratto Rosso, Elisabetta Catalano guarda Federico Fellini, studi di Cinecittà a Roma dal 25 febbraio al 21 marzo 2021. Ben trovata. Buongiorno, buongiorno Federico. Ti presenti questa mostra?